Perché? Questa è la domanda che più spesso mi pongono. Pourquoi? Perché? A che scopo? Perché tu cammini sul filo? Perché tu sfidi il destino? Per me, camminare sul filo è la vita. Sì, la vita. I funamboli, cronache di un paese in equilibrio. Di Alessandro Milan, con Veronica Gentili e Leonardo Manera. Siamo qui, sono le 9:08 minuti in punto qui a Radio 24, radio dell'orario ufficiale mondiale, e i funamboli sono tornati oggi con una puntata ricchissima. Veronica, eccoci qui. Oggi è proprio una bella puntata, diciamocelo. Diciamolo prima che inizi. Lo vogliamo dire per un perché sulla carta è una bellissima puntata, adesso sta a noi rovinarla. 800 24 00 24 è il numero per intervenire in diretta. E poi scusatemi, ecco, il numero degli SMS, il numero degli SMS ogni tanto succede, è 349 238 6666. Voglio anche le vostre sigle, le sigle in audio per i funamboli, così poi le mandiamo in onda, le sigle che ci coinvolgono. Salutiamo. Si anche... è montato la testa, adesso vuole delle dediche in realtà, non delle sigle. No, non esagerate con cose troppo sentimentali. Oggi parleremo di tante cose, parleremo più avanti della movida rumorosa nelle città, parleremo di lavori insoliti, torneremo a Buccinasco per parlare del sindaco dove risiede Rocco Papalia. Ti ricordi, effettivamente abbiamo il dono, quando tocchiamo delle situazioni un paio di settimane tutto si va a smucinare. Ma vogliamo partire da quella che è l'attualità internazionale. Tu dai giornali si legge da qualche giorno, e ieri poi la notizia di svolta, la caduta di Raqqa, simbolo roccaforte dell'ISIS e quindi dello Stato Islamico. Devo dire, Veronica, che io sono un po' inquietato, rassicurato dal punto di vista militare, ma inquietato, perché magari possiamo porre questa domanda agli ascoltatori. Ho capito, ma dove vanno adesso quelli dell'ISIS che sono sopravvissuti? Che magari... È questo il discorso, perché adesso ci sono una serie di incognite che restano aperte. Per esempio, tutti i vari paesi europei che hanno avuto dei connazionali che si sono arruolati nelle file dell'ISIS, no? Che hanno combattuto per la jihad, adesso che ne faranno di quei loro connazionali che sono sopravvissuti? Se ne occuperà la loro giustizia? Li lasceranno, come diceva il ministro degli esteri francese, alla giurisdizione siriana? Questo è ancora tutto da capire. E poi bisogna anche capire qual è lo scenario che resta in Medio Oriente, perché non c'è stato neanche il tempo di farla finire la guerra contro l'ISIS, che tra curdi e iracheni si è riacceso immediatamente il conflitto. Sì, e soprattutto mi inquieta sapere, ora che non hanno un luogo fisico a Raqqa e nelle altre roccaforti, dove andranno tutti i combattenti dell'ISIS. È inutile negare che io guardo anche qui vicino, sotto casa nostra. Beh, cioè l'Europa, dove purtroppo sappiamo che nei momenti in cui lo Stato Islamico si è sentito più fragile in loco, no, ha tentato di mostrare la sua forza e i muscoli in Europa, quindi questo lascia chiaramente molto in apprensione. Diamo il numero ancora, 800 24 00 24 se volete raccontarci qualcosa, perché partiamo da qui. 349 238 6666. Io ti dico che l'ISIS è un nemico dell'umanità. Non hanno preso casa tua, però. Magari la prenderanno. O magari mia madre, che era in vacanza a Parigi, è rimasta uccisa perché quelli hanno fatto un attentato. Pensa se tu domani andassi a Parigi, o a Stoccolma, o a Londra, o in Germania. Non funziona più così. Vai, bastardi, vai! Allora, questo era un estratto dell'intervista che Alex Pineschi ha rilasciato qualche tempo fa alla trasmissione TV Nemo, tra l'altro una delle mie trasmissioni preferite, quella che vedo con maggiore piacere, su Rai 2. Alex Pineschi, alpino, è uno di quelli che è andato a combattere al fianco dei curdi e dunque per sconfiggere l'ISIS. Tra l'altro con noi c'è Fausto Biloslavo, inviato del giornale, che lo ha anche incontrato, lo ha intervistato. Fausto, buongiorno e grazie di essere qui con noi. Buongiorno, buongiorno. Vogliamo salutare anche Veronica, lo dobbiamo definire un foreign fighter tecnicamente. Lui si definisce un foreign fighter dalla parte giusta. Dalla parte giusta. Lo chiamiamo Paolo Pachino, non è il suo vero nome, è con noi, buongiorno. Buongiorno. 26 anni, è stato in Siria dall'agosto del 2016 al maggio 2017, quasi un anno, fino a poco fa. Per combattere con chi, Paolo? Sì, io sono andato all'agosto del 2016 per unirmi all'OIEP, che è le unità di difesa del popolo della Confederazione Democratica della Siria del Nord. Cioè i curdi, sì. Per combattere al fianco dei curdi contro l'ISIS. Ma perché, perché un ragazzo di 26 anni va a sposare questa causa? Beh, io credo che nel nord della Siria, così come Rojava, dal 2012 è nato un processo rivoluzionario basato sull'uguaglianza di genere, sull'ecologia e sull'uguaglianza etnica, e quelle sono state le motivazioni per cui mi hanno spinto a combattere contro l'ISIS e difendere i popoli del nord della Siria. Però Paolo, scusami, io voglio farti una domanda più precisa, proprio da un punto di vista umano, no? Apparentemente questa è una causa molto distante, se non altro dal punto di vista proprio logistico, da te, no? Non sono quelle battaglie che uno sente magari per appartenenza, nazionalità, è proprio lontana. Allora, che cos'è che spinge addirittura fisicamente a dire: io prendo, faccio il biglietto, parto e mi arruolo? Perché è una cosa molto forte a sentirla dall'esterno. Beh sì, io già ero andato in Siria nel marzo del 2016, stando un mese lì, diciamo, nel civile, girando un po' nord della Siria, conoscendo compagni e compagne, la popolazione locale. Quindi il vedere una realtà così fatta, una rivoluzione fatta assolutamente di uguaglianze, di fratellanza fra popoli, mi ha spinto ad andare giù nonostante la distanza. Sì, qui si vede il contrasto, mi pare di capire, rispetto invece a quello che è l'oscurantismo, il jihadismo dell'ISIS. So che hai partecipato all'avanzata verso Raqqa, no? Quindi all'avanzata, la conquista anche di villaggi, la conquista di postazioni. Ma cosa vuol dire combattere? Cioè, eravate proprio in prima linea? Venite voi, tu come altri foreign fighter, messi a combattere in prima linea, oppure fate altro? Ma soprattutto eri già capace di combattere, cioè eri già stato addestrato, eri già in grado di affrontare una situazione di questo tipo? Beh, diciamo, quando si arriva in Rojava all'inizio si viene a addestrarsi a una formazione principalmente ideologica, perché è quella la base su cui fonda il tutto, e poi anche una formazione, un minimo di formazione per tutto il resto. Militare, poi, immagino. Sì, poi nel senso, quando si è a fronte si è lì, si tiene la posizione, si avanza e tutto, quindi quando si affronta si è lì e sappiamo tutti come può procedere la vita a fronte. Invece quando la maggior parte del tempo in cui magari stai in una base le trovi e fai classica vita fatta di turno. È chiaro, il militare, il soldato, cioè la vita militare quando si sta tranquilli e quando c'è da stare al fronte, voglio dire, in prima linea. Fausto Biloslavo, quanti ne hai incontrate delle persone così? E poi insomma, cerchiamo anche di capire, analizzare ora che succederà con la caduta di Raqqa, se dobbiamo essere tutti contenti, felici, certo, però poi c'è un dopo delle cose. Ma diversi, ne ho incontrati diversi, tra l'altro soprattutto a Raqqa. Io quest'estate sono stato a Raqqa durante l'assedio e c'erano diversi, insomma qualche decina di volontari, sia italiani ma soprattutto stranieri, inglesi, americani. Molti erano spinti anche da una vicinanza, un fervore ideologico, questa idea, appunto, come è stata descritta, della rivoluzione dei curdi, sono socialisteggianti, no? E così via. Altri però, per esempio, c'erano ex legionari francesi che combattevano perché le bandiere nere, i terroristi hanno attaccato Parigi e quindi volevano in qualche modo vendicarsi, insomma, no? Certo. E si trovavano tutti assieme, accomunati dall'assedio di Raqqa, cioè la prima storica capitale dello Stato islamico, cioè liberare e far cadere, insomma, un simbolo, cioè il simbolo delle bandiere nere, il primo simbolo. Fausto, ma è giusto dire che probabilmente anche la causa curda, no? la creazione di un Kurdistan libero con un certo tipo di valori, ha fatto da motore, è stato un collante per attirare a sé tutta una serie di giovani combattenti dai paesi europei, occidentali, che hanno un po' combattuto in nome di un ideale? Assolutamente sì, è come dire, metà della motivazione, una è ovviamente combattere contro, diciamo, il male, fra virgolette, non rappresentato dal califfato. L'altra metà sicuramente è quella della causa curda, e qua ci sono dei problemi, perché sono circa 2000 dall'inizio della creazione di questa sorta di regione autonoma nel nord-est della Siria da parte dei curdi, che si chiama, sì, Rojava, che però confina con la Turchia, e i turchi vedono queste forze curde come fumo negli occhi, perché li considerano derivazione del PKK di Öcalan, che è in galera in Turchia, eccetera eccetera, no? Però è ovvio che questi giovani occidentali, appunto circa 2000, sono andati a combattere, e qui sono morti, diversi sono morti, altri sono stati feriti, e lo fanno anche per la causa curda, perché i curdi anelano ad avere uno Stato, sono un popolo diviso in diverse nazioni, anche se bisogna sottolineare, i curdi della Siria non chiedono nessuna indipendenza, chiedono solo una totale autonomia, che di fatto hanno già conquistato con le armi nel marasma della guerra civile. Ma tra l'altro morti ci sono stati, ricordiamo per esempio tra gli italiani la prima vittima accertata fu da Genova, Del Nevo. Noi abbiamo anche chiamato il papà di Del Nevo, che è stato ucciso. Ecco, lui combatteva, Fausto, si può dire, dalla parte sbagliata, senza volere giudicare, ma insomma Paolo Pachino, che è qui, dice: io combatto contro l'ISIS e sento di combattere dalla parte giusta, dalla parte tra virgolette del bene, no? Se si può usare ancora queste categorie, sì, bene sì, o male. Ci sono anche persone che hanno combattuto e sono lì per l'ISIS, cioè foreign fighters che combattono. Che ora dove sono? Che ora dove andranno? Soprattutto torneranno a casa in Italia, ma come negli altri paesi europei? Cioè, cosa se ne farà? Ecco, quelli che hanno scelto la parte sbagliata con ugual vigore, con ugual innamoramento, ma per la parte sbagliata, molti sono stati uccisi. Non si sa poco, ma in realtà molti sono già tornati. Il 30-40% si calcola di volontari della Guerra Santa, partiti dall'Europa, e quindi partiti solo per questo innamoramento del califfato ideologico-religioso e così via, il califfato in terra, come ai tempi di Maometto, sono già tornati a casa. Dicono che sono quasi tutti monitorizzati, controllati, io spero che sia così, però il 30-40% è un bel numero, perché sono partiti in migliaia, cioè stiamo parlando di... Ma non c'è la legge, non c'è la legge che dovrebbe perseguirli, voglio dire, è passata allora, anche di recente, no? Allora, prima di tutto ogni paese ha la sua legge in questo caso. Per esempio ci sono i paesi del nord che dicono che questi devono essere recuperati, no? E allora gli fanno una sorta di disintossicazione ideologica, religiosa, che fa un po' ridere, perché, come dire, questi sono già partiti pensando alla Guerra Santa, poi l'hanno fatta, sono diventati veterani, è un po' difficile trovare dei pentiti là dentro, qualcuno che dice ho sbagliato. Sì, ce n'è qualcuno e tutti gli altri lo considerano un traditore da tagliargli la gola, sì. Insomma, questa è la verità. Oltretutto l'atteggiamento cambia in continuazione, perché invece Hollande, per esempio, quando era ancora in carica, addirittura diedero un elenco di quelli che erano i nomi dei foreign fighter francesi alle autorità locali lì in tutta la zona del Levante, per dandogli in qualche modo l'ordine di ucciderli qualora fosse stato possibile. E poi invece adesso, come giustamente raccontavi tu, l'atteggiamento è completamente diverso. Sì, ecco, beh, i francesi continuano a non andare per il sottile, nel senso che hanno ammazzato proprio con i loro droni, con bombardamenti mirati, dei Mirage, hanno ammazzato quelli che consideravano, insomma, gli elementi, gli organizzatori degli attacchi in Francia, e per di più adesso a Raqqa sembrava che ci fosse, forse c'era, è scappato, è morto, chi lo sa, anche proprio la mente del Bataclan e dell'attacco a Bruxelles, un certo Samatar, che non voleva arrendere. diversi, con i duri e puri, e foreign fighters duri e puri. E l'altro aspetto è che la ministra della difesa francese ha detto chiaramente, esattamente, ma, insomma, prima. Come dire, se vengono ammazzati non piango una lacrima, è no? Chiaro, è chiaro, cioè, come meglio gestirli lì, ma addirittura diceva che è meglio che li tenga la giustizia siriana. Sì, ma poi la giustizia siriana bisogna capire, significa il patibolo, no? Cioè, come poteva dire, meglio il patibolo, era uguale. Io vorrei, siccome ci sono degli ascoltatori, vorrei però chiedere ancora un paio di cose a Paolo Pachino. Paolo, combattere vuol dire stare anche sul fronte. È capitato anche di dover uccidere qualcuno? Nel senso, se sei in guerra, poi quando sei in guerra molte robe succedono, vuol dire. Preferirei non avanzare con la domanda. La prendo come un no comment, la prendo come un no comment, ma come dire, che non esclude questa eventualità. Ma è ripagato? Assolutamente no. Cioè, una cosa fatta perché credi in quello che hai fatto. Ma oggi, dopo averlo fatto, adesso che è accaduta Raqqa ieri, tu ti ritieni soddisfatto? Cioè, pensi che quello che è accaduto sarà realmente utile e che adesso la situazione cambierà? Beh, io credo che la caduta di Raqqa ovviamente rende tutti e tutte felici, in primis la popolazione della città di Raqqa. Poi dopo Raqqa lo scenario è molto, diciamo, imprevedibile, tutto si capirà anche dalla coalizione internazionale, visto che adesso non c'è il cosiddetto nemico comune, come saranno i rapporti con esse, come sarà il rapporto con Assad sostenuto dalla Russia. Chiede un ascoltatore via WhatsApp, perché hai deciso di rientrare a un certo punto dopo un anno? Beh, dopo un anno sono rientrato anche perché era un anno che ero giù e quindi un attimo, come dire, volevo staccare. Poi il rientro non è stato proprio bello, se sono stato arrestato nel Kurdistan iracheno, ma quello è un'altra storia. Perché? Sì, nel senso, quando sono uscito, visto che ovviamente si ha il visto scaduto quando si esce dalla Siria, perché si è lì da 9 mesi e il visto è nel Kurdistan iracheno, siamo stati fermati a un posto di blocco mentre eravamo in macchina e siamo stati arrestati dai peshmerga di Barzani con l'accusa di non aver rinnovato il visto. Però i peshmerga di Barzani, il Kurdistan iracheno, è da sempre nemico nel nord della Siria, e quindi chi combatte per lo YPG ed esce sa che può cadere in quell'eventualità. Perché lì poi c'è anche tutto il problema di fazioni interne ai curdi, no? Quindi alcune ritenute più favorevoli all'autonomia e altre meno, quindi lo scenario è complicato. Sono tanti italiani che sono lì a combattere come hai fatto tu? Beh, diciamo ufficialmente, di quello che so io, che anche ho letto tutto, sono stati 6-7. 6 o 7. Ti posso chiedere una cosa, Paolo? Ma i tuoi parenti, per esempio, le persone vicino a te, la famiglia, cioè, vedere un ragazzo così giovane sposare una causa così, così importante, però così forte, così estrema, quali sono state le reazioni? Beh, ovviamente le classiche reazioni di una famiglia molto preoccupata per il proprio figlio e il proprio nipote, assolutamente. Quindi non l'hanno molto appoggiata. C'è Giulio dalla Spezia, buongiorno Giulio. Buongiorno a voi, buongiorno. Sì, niente, praticamente io sono un analista di cyberterrorismo dell'Università di Pisa. Volevo solamente fare una considerazione, nel senso che il discorso è leggermente un po' più complesso di come si sta affrontando. Anzitutto bisogna fare una distinzione per quanto riguarda questi possibili foreign fighters di rientro fra coloro che si sono prima del 2014, quindi a partire dal 2010, arruolati in quello che poi sarebbe diventato questo sedicente Stato Islamico, quindi foreign fighters motivati per quelle che potevano essere le intenzioni di allora, fra coloro che poi dal 2014 in avanti si sono arruolati su convenzioni ancora diverse, e quindi sono due modelli operativi differenti. Quindi il possibile foreign fighter originario dello Stato Islamico che è già rientrato in Europa a partire dal 2015, quando si è disgregato inizialmente lo Stato Islamico, ha sicuramente una pericolosità. una pericolosità sociale. Sì. Colui che invece si è arruolato per motivazioni differenti, ma non ideologie contro l'Occidente, ma per avere una territorialità sul posto, allora è un altro tipo di particolarità. Quante distinzioni, differente. Giulio, lo capisco le distinzioni, però se uno si arruola per l'ISIS, si arruola per, non lo so, Fausto Biloslavo, capisci? Sì, cioè, come dire, sì, mi rendo conto, insomma, ecco, di queste distinzioni, però il fatto è che se uno si arruola sotto le bandiere nere, si arruola sotto le bandiere nere, punto a capo. Io volevo aggiungere qualcosa sui volontari italiani, perché ne ho incontrati due a Raqqa e sono stato un paio di giorni con loro in prima linea. E uno era uno, cioè, era stato sulla quarantina, che era anche attivista, notava a Torino, però poi si è innamorato della causa curda e quindi è andato a combattere. L'altro era un ragazzo più giovane, anche molto in gamba, e aveva combattuto, aveva fatto tutta l'offensiva, e però non aveva detto alla famiglia che andava a combattere, aveva detto che andava a aiutare nei campi profughi, sì, e così via. E quindi non ho potuto scrivere il suo nome, né da dove viene e così via, perché non lo sapevano neanche. La famiglia non lo sapeva neanche, pensava che fosse là ad aiutare. E a me però, Fausto, preoccupano davvero più i destini, perché incrociano i destini nostri di quelli che erano dall'altra parte, certo, con l'ISIS, certo, e che chissà adesso dove avranno. Ecco. Cioè, paradossalmente, identificarli con un luogo geografico, Raqqa, ci permetteva in qualche modo di dire, vabbè, sono lì. C'è una guerra. Esatto, non solo Raqqa, ma anche Mosul, anche Sirte. Sì. Io quest'ultimo anno l'ho vissuto pericolosamente, andando proprio a raccontare tutte queste tre battaglie. Là almeno era un ruolo fisico, erano là, dicevano da Sirte vogliamo arrivare a Roma, oltre il Mediterraneo, da Mosul anche facevano questi murali, però almeno erano là, si potevano, come dire, anche cinicamente bombardare, colpire, ma anche perché controllare. Fausto, in un anno lo scenario è cambiato moltissimo, cioè soltanto, certo, un anno fa buona parte dell'Iraq occidentale e della Siria orientale erano ancora controllate invece dallo Stato, del sedicente Stato Islamico. Esatto, è cambiato il fatto che lo Stato Islamico non è più Stato, cioè non controlla più il territorio, ma vuol dire che queste forze diventano clandestine e loro si sono preparati a questo, quindi diventano forze di guerriglia e forze di terrorismo anche a casa nostra. Non dimentichiamo che a Raqqa le mogli dei mujahideen che ho incontrato e che si erano arrese mi hanno raccontato che c'erano tra i 12 e 15 jihadisti italiani nel senso che sono partiti, sì, dall'Italia ed erano in prima linea. Non si sa se sono morti, se sono vivi, se sono scappati. Sicuramente, per esempio, nell'ultima roccaforte che è più in là di Raqqa, sud-est di Raqqa, lungo sempre il fiume Eufrate, che si chiama Al-Maidan, che sarebbe stata conquistata negli ultimi giorni, ci sono per esempio due jihadiste italiane, cioè due donne, in questo, sì, caso italiane. Che anche di queste però non si sa il destino, forse una è morta, si dice. Esatto, jihadiste italiane che però erano evacuate con i resti dei vertici dello Stato Islamico. Adesso tutto questo non esiste più, non è stato sgretolato. Allora, dove sono? Sono sicuramente, come dire, underground, cioè faranno una lotta di guerriglia clandestina. D'altro canto, in Iraq, nelle città principali che avevano liberato nei primi 6 mesi di quest'anno, ci sono stati circa 1000 attentati, no? E non è che li fa qualcuno. Allora, noi ringraziamo davvero Fausto Biloslavo, inviato del giornale, così come ringraziamo Paolo Pacchino, non è, ripeto, il suo vero nome, è foreign fighter, che di 26 anni è stato in Siria per combattere al fianco dei curdi. Ecco, c'è chi ci scrive, Veronica, io non lo facevo rientrare. Forse però non si è capito che combatteva contro l'ISIS, quindi combatteva per una causa che dovrebbe essere la causa di tutti noi. Io posso porti un unico quesito, Alessandro, su cui in generale ci interroghiamo. C'è una parte, credo, degli ascoltatori che se lo domandano, ma me lo domando anch'io. Effettivamente esiste una parte giusta e una parte sbagliata? Probabilmente sì, rispetto secondo a quelli che sono, sì, i nostri canoni occidentali, sì, certo che sì. Però per noi è di difficile comprensione capire come una persona che appartiene ad un'altra cultura, ad altri valori, scelga di imbracciare le armi in un contesto come questo. Effettivamente dubbio, cioè, è difficile, è difficile da capire le dinamiche mentali che scattano. Io non lo capisco, nel senso che rispetto l'idea di averlo fatto, ma non lo farei mai, ecco, personalmente. Però ci sono effettivamente delle parti, e la parte scelta, quella coi curdi, non è certo come scegliere la parte dell'ISIS. Su questo non c'è dubbio. Comunque andiamo in pubblicità, poi torneremo su cose italiane, a cominciare dal sindaco di Buccinasco, provincia di Milano, che abbiamo richiamato. C'è un problemuccio con Rocco Papalia, che risiede, di convivenza domestica più o meno, nel suo comune, dopo aver scontato la condanna per 'ndrangheta in carcere, e poi tanti altri che ora rivuole il suo cortile. Sì, state con noi. I Funamboli. Child, don't you worry, it's enough you're growing up in such a hurry. Buongiorno, caro Milan, se vuole sapere davvero dove vanno a finire quelli combattenti dall'ISIS, saranno la bomba a orologeria del prossimo round. Io non l'ho detto, caro ascoltatore, ma lo dici tu e io un po' lo temo, cioè che schegge impazzite ora, proprio perché non hanno più un luogo fisico, siano ancora più invogliate a colpire come purtroppo hanno fatto. Che questo fosse uno dei rischi lo sapevamo Del resto era anche uno dei quesiti, quindi non si poteva lasciare la situazione in loco così com'era? No, è chiaro, assolutamente no, però non compiate l'errore, cari ascoltatori, di pensare, vabbè, l'ISIS è sconfitto, Raqqa non c'è più, Ale, finito. No, adesso speriamo di no, speriamo davvero. Anche se c'è però da sottolineare che una delle differenze sostanziali tra appunto l'ISIS e Al-Qaeda, per esempio, era il fatto che loro si fossero in qualche modo dotati di un territorio, cioè avessero deciso di avere un luogo, di geolocalizzarsi, e questo adesso finisce. Allora, 800 24 00 24, i funamboli sono così, tornano, cambiano pagina, vogliamo andare un salto di luogo in sulla Italia, cartina. Sì, e torniamo possiamo dire a Buccinasco, perché il sindaco di Buccinasco è già stato nostro ospite, Rino Pruiti. Buongiorno sindaco, grazie di essere ancora qui. Abbiamo già raccontato, per chi ci ha seguito con pazienza, qualche giorno fa che a Buccinasco c'è il boss Rocco Papalia, dopo 26 anni di carcere è sotto sorveglianza speciale in una villetta nella suo domicilio, sindaco. Solo che lì voi avete piazzato anche come simbolo, che cosa, ce lo ricordi? Ma tre quarti dell'immobile sono stati confiscati, non al Papalia ma ai suoi parenti, anche loro pregiudicati, e gli abbiamo messo uno SPRAR per i giovani profughi non accompagnati, quindi minorenni non accompagnati. Sì, SPRAR, ricordiamo, questa sigla con cui si gestiscono i migranti, esatto, da parte dei comuni. È solo che Rocco Papalia è venuto in comune e a lamentarsi. Ma lì questa vicenda, che era già grottesca all'inizio, nel senso che lo Stato secondo me non può avere come vicino di casa un pregiudicato al quale è stata presa la casa, ma adesso siamo proprio stiamo peggiorando la situazione, perché è venuto a rivendicare l'utilizzo degli spazi comuni, che ovviamente non sono stati confiscati, cioè il cortile, l'ingresso, il carraio, eccetera eccetera, che concretamente a lui non serve perché non ci può fare assolutamente nulla, ma a noi serve per fare per dare sfogo ai ragazzi, per poter studiare nel cortile, organizzare convegni e fare tutto quello che è l'attività dell'amministrazione comunale e del comune in un luogo che è di fatto della collettività. Cioè, sindaco, sostanzialmente lui vorrebbe espropriarne voi di queste zone, vorrebbe riprenderne possesso e vorrebbe che tornassero ad essere sue? No, vorrebbe utilizzarle in teoria, anche se poi è insieme impossibile, a voi, in coabitazione, come si fa nei condomini, non so, cortile, come se fosse una normale convivenza condominiale. Esatto, cosa che non è possibile, se non altro, al di là di tutte le prescrizioni, perché ci sono dei minori, Ma lei in questo che cosa legge? Una provocazione volontaria fatta da Papalia nei vostri confronti, nei confronti del comune, o... Ma io non voglio leggere provocazioni, io leggo probabilmente la frustrazione di un personaggio che ha perso, diciamo, il potere immenso che aveva, o almeno io spero che abbia perso il suo potere sul territorio, e che si trova all'interno di casa sua, di fatto, l'organizzazione di iniziative antimafia, e quindi immagino che questa frustrazione lo porti a queste esternazioni, a queste richieste irricevibili. Ma peraltro il fatto che entri in comune, lui è un uomo libero, ricordiamo, può farlo, ma se l'hai trovato proprio di fronte, cioè è venuto anche No, io escludo di trovare mai di fronte a questo personaggio. Non, e come fai a escluderlo? Siete tutti lì? Lo escludo nel senso che io non gli darò questa possibilità, non mi interessa e non è opportuno che questo avvenga. Va agli uffici come qualsiasi cittadino, si presenta allo sportello, legittimamente fa le sue istanze, per il momento solo verbali, quindi stiamo parlando, diciamo, di una sua richiesta di informazione e di interlocuzione. Poi se le formalizzerà per iscritto vedremo, si vedrà. Senta, si vedrà. Sindaco, noi l'abbiamo chiamata anche per una vicenda di cronaca. Ogni tanto, sa, noi torniamo su questo tema, quelli che vengono definiti i cosiddetti furbetti del cartellino. Poi è un'espressione che magari non piace a molti. Ma è vero che c'è un vigile urbano che timbrava e andava a fare i fatti propri? Sì, io non vorrei entrare poi nella vicenda, perché poi oltre all'azione disciplinare immediata che abbiamo attivato come amministrazione c'è la magistratura che chiaramente procede su queste è fantastica su queste questa cosa, perché io capisco la prudenza quando si parla di queste vicende, c'è sempre una prudenza totale, perché qualsiasi prudenza. Parola poi poi il giudice reintegra poi no. Dopo per carità quindi lo so. Oltretutto ti ricordi Alessandro il caso di cui abbiamo parlato dell'impiegato che invece è stato assolto e reinserito perché ci aveva messo troppo l'azienda a licenziarlo, chiaro, quindi come no. La quantità di paradossi è enorme. Era un'azienda privata addirittura alle Poste, certo. Però sindaco ci spieghi, sì. Cioè, c'è una situazione al netto della prudenza che lei deve tenere. No, ma la situazione è chiarissima, non ci nascondiamo, noi applichiamo quelle che sono le regole. Questa persona si è comportata male, ha violato quello che è il patto anche etico di rispetto con le istituzioni, è stato redarguito, c'è stato un procedimento disciplinare interno che ha portato alla sospensione. Poteva essere anche peggio. Diciamo che in prima istanza hanno deciso, perché non sono io che decido queste punizioni, ma vengono fatte da colleghi, cioè dal segretario comunale e dall'ufficio personale, di sospenderlo senza stipendio per 6 mesi. Poteva essere peggio, in questi casi potrebbe anche essere previsto il licenziamento in tronco. Poi adesso aspetteremo la magistratura, sono state fatte i percorsi, e come in altri casi, perché quest'anno già un'altra dipendente è stata licenziata, ci priveremo del contributo di queste persone a sentenza definitiva, chiaramente. E va bene, caro sindaco, staremo a vedere. E si può dire che questa è una caratteristica che mette insieme tutta la penisola, dei furbetti del cartellino. Purtroppo sì. Sindaco, noi la ringraziamo, sindaco di Buccinasco, Rino Pruiti, ci tenga informato ovviamente sulla vicenda anche Papalia, anzi siamo noi che ogni tanto la scomoderemo per capire come va. Grazie a voi. Sindaco, grazie. C'è Michele che ci chiama da Brindisi all'800 24 0024. Michele. Sì, buongiorno, grazie per avermi richiamato. Niente, vorrei fare una piccola condanna a queste persone che sono andate di là a fare la guerra, giusto o sbagliata, quello è un problema loro. Però io non le lascerei entrare, perché oggi sono delle mine vaganti. Cioè anche se hanno combattuto anche dal con lato i curdi, giusto, tra virgolette, sì. Anche dal lato giusto, perché chi ha superato la prova del fuoco, è un modo di dire, non ci pensa due volte a doverlo rifare, e le spiego. Io nell'80 ero, non vorrei entrare nel particolare del battaglione, della compagnia, comunque ero un tiratore scelto. Eravamo in 8 che siamo state paracadutate in Libano, perché lì siamo i primi. In Libano, certo, come? Eravamo i primi a scendere a copertura di tutte le parti che poi sarebbe paracadutato dopo. Noi l'ingaggio era quello di non sparare, noi avevamo ordine di ingaggio di non sparare a copertura, intende, la copertura viene detta per il nostro equipaggiamento e per la nostra persona, quindi noi l'ordine di non fare fuoco, anche se eravamo equipaggiati, eravamo armati. Beh, chiaro, forse non sparare a meno che non ci sia un attacco, allora uno può per difesa difendersi. La propria persona e il proprio fucile, noi parliamo del fucile che era il nostro. E cosa è successo lì in Libano? È successo che quando siamo stati paracadutati giù eravamo in 14 o 15, non ricordo il numero, e c'era un ufficiale, eravamo sotto l'ordine di un ufficiale americano, eravamo sotto la NATO, in pratica. Tre libanesi che stavano lì a copertura delle spiagge hanno visto l'elicottero che stava scendendo e che stavano paracadutando. Automaticamente sono messi a correre. Nel frattempo che noi abbiamo preso le nostre postazioni, l'ufficiale americano diede ordine di sparare. Sì. E lei che fece? i loro predisposti, diciamo gli americani, erano fuori tiro perché avevano degli alberi a copertura, quindi non potevano sparare. Michele, ci aiuti nella sintesi. Sì. Lei che fece di fronte a questo ordine? Mi dice ordine di sparare, io non l'ho fatto. Non l'ha fatto? No, assolutamente. A prescindere di sparare una persona alle spalle, ma non me la sono sentita proprio umanamente, forse di fronte. Sì. In un momento di pericolo l'avrei fatto, no, perché chiaro. Io l'ho pagato. Quindi lei, Michele, dice mi scusi perché dovevo andare. Non li farebbe rientrare per questo. Non li farebbe rientrare perché hanno superato quel confine che è quello che permette di vivere in un. Ma è chiaro che sono persone che, voglio dire, d'altronde sono talmente poche che si spingono a fare questo, che evidentemente sono animate da un qualcosa che io non sentirei mai, non proverei mai. Questo è il tratto comune, a prescindere dal giusto o sbagliato, che può animare qualcuno che decida di andare ad imbracciare delle armi per una causa che apparentemente non gli è prossima. Michele comunque ci racconta che non le avrebbe fatti rientrare. Grazie Michele da Brindisi. Andiamo al traffico, perché poi c'è il funambolone, c'è il nostro Leonardo Manera che si aggira sempre inquieto qui negli studi. Tra poco. I funamboli. Buongiorno funamboli, sono Silvio Berlusconi, volevo salutarvi e dire al signor Manera, quando vuole tornare a lavorare per Mediaset, è il benvenuto, gli do anche una bella trasmissione da gestire e siccome non riesco a venderla, anche la mia villa alle Bermuda. Buona giornata a tutti. Grazie Presidente. Io ringrazio, mi sono anche un po' emozionato. Guarda, ha chiamato praticamente per te, cavaliere. Ha chiamato per Bermuda addirittura. Allora, quelli che sono italiani, imitati da tutti in Italia, sono Berlusconi ed Eros Ramazzotti. Con una voce un po' nasale, tutti fanno queste imitazioni. Io Eros Ramazzotti non l'ho mai sentito. Una bella promessa. Super classico. Allora, buongiorno a tutti. Come sempre sono arrivati in metropolitana, cara Veronica, Alessandro. Io non riesco a capire quelli che corrono sulle scale mobili. Tu li vedi, sei già sulla scala mobile, aspetta un attimo, a quanto Milano, guadagni? A Milano. Guadagni forse 5 secondi, invece tu ti devi fare da parte, sulla destra, perché c'è quello che è già sulla scala mobile e deve correre. A Milano. Io dico, calmati Milano. Un attimo. Che calma. Cosa vorresti dire con questa a Milano? A Milano. Ma no, a Milano, Milano succede, non nelle altre città. Li odio quelli che corrono sulle scale sono mobili. Sono i milanesi in bruttiti. Allora, siccome ho un brutto carattere, mi sono lamentato ad alta voce. C'era una ragazza quanto a me che si è messa a ridere, ha detto a Milano è così. Vedi, a Milano. E io ho detto, io sono di Milano, ma io non sono così. Ma un'altra cosa mi ha stupito stamattina sulle scale mobili, c'erano due ragazze anche carine, che parlavano di Nagatomo e dicevano che sono innamorate di Nagatomo. Tu lo fai apposta. Chi è Nagatomo? Nagatomo. Anche la nostra Elisa Pancaldi è un giocatoraccio dell'Inter giapponese. Cioè uno il più brutto, perché secondo i canoni di bellezza, voglio dire, uno dice, può dire Icardi, e lo dico con mio malgrado, oppure Icardi. Oh, basta! Basta! Anche senti, tu non te la cercare. Il derby del 98, vogliamo mettere ormai, è passato remoto. Quindi era in scala mobile, c'era questi che salivano, correvano sulla scala mobile, accanto a me queste due ragazze che dicevano io Nagatomo me lo farei, quindi che la giornata mia, è iniziata Nagatomo, malissimo. Nagatomo, eppure alto 1,40 m, Nagatomo. Ma... Ah, qui discrimini. Adesso cominciamo discrimini. Con i discrimini di altezza, allora. No, vabbè, dai. Cioè, con tutti i bei giocatori, ma Nagatomo me lo farei. Probabilmente post derby, no? Sai, il successo, sì, vabbè, vittoria, quella cosa, no? Che emana sensualità. Sì, sì. E poi c'erano tutti questi ragazzini che stavano anche andando a scuola. E ieri sul giornale c'era questo articolo, proprio su Il Giornale, diceva che forse tornerà il grembiule a scuola, non solo per i più piccoli, ma insomma anche alle medie e così via. I pediatri, ho letto, vogliono reintrodurre il grembiule perché aiuterebbe a interrompere la circolazione di virus e infezioni da scuola a casa. Però poi dico io, a casa bisogna lavarlo, altrimenti non è che da solo il grembiule è uno schermo magico contro i batteri. Bisogna che il papà o la mamma lo metti in lavatrice col detersivo, l'anticalcare, la chiappa colore, poi bisogna stirarlo. Secondo me alcuni genitori preferiscono il virus piuttosto che star lì a lavare e stirare, preferiscono che il figlio si prenda l'influenza o qualche virus gastrointestinale. In più, dicono gli esperti, il grembiule metterebbe fine all'ossessione dell'abbigliamento firmato. Non che io ce l'abbia mai avuto, però per esempio, ai miei tempi c'erano i paninari che si compravano i vestiti firmati, e quelli che non potevano permettersi le Barrington oppure il piumino Moncler, come me, mettevano le imitazioni e venivano guardati con disprezzo dalle ragazze. Le ragazze, quando io ero adolescente, non guardavano l'aspetto fisico o la simpatia del ragazzo, si mettevano solo con quelli che ce l'avevano firmato, che ce l'avevano originale, il piumino intendo. Quindi, in questo senso, per eliminare le differenze di ceto, probabilmente il grembiule servirebbe. In più, dicono gli esperti, il grembiule contribuisce a sacralizzare la scuola, marcando la differenza tra scuola e gli altri posti dove il grembiule non si usa. Come dire, qui siamo a scuola e non si possono fare quelle cose che si possono fare quando si è fuori da qui. Bisogna essere educati, prepararsi, non chattare col telefonino durante le lezioni. Praticamente fantascienza, ma può darsi che funzioni. Per me, in effetti, quando ero bambino, il grembiule era così. Era una specie di divisa da lavoro. Quando, prima di uscire da casa, mia madre mi metteva il grembiule, avevo l'impressione di andare a fare il mio lavoro. Lavoro difficilissimo, perché avevo un maestro severo, Manesco, che dava schiaffi, tirava il cancellino in faccia ai bambini, metteva in castigo in ginocchio dietro la lavagna, qualche volta ti legava la lavagna. E avevo un cane che controllava noi bambini quando andavamo in bagno. E tutto questo con l'approvazione dei genitori, che davano sempre ragione al maestro, anche quando alzava le mani, perché quella era l'educazione di una volta. Per noi bambini di una volta, mettere il grembiule era come dire: sono un bambino, devo obbedienza completa, assoluta al mio maestro, che su di me ha potere di vita e di morte, con l'approvazione dei miei genitori. Quando ero bambino, per me il maestro era Dio e mi faceva paura, e non c'era neanche la consolazione del Dio che imparava catechismo, perché allora, quando si faceva catechismo, il Dio che ci insegnavano era un Dio vendicativo, che non perdonava niente, se sgarravi in un attimo ti mandava all'inferno. Infatti, quando andava a messa, ero terrorizzato dal confiteor. Confesso a Dio onnipotente che ho peccato in pensieri, cose che ho pensato, parole, cose che ho detto, opere, cose che ho fatto, omissioni, cose che non ho fatto. Cioè, qualsiasi cosa abbia fatto o non fatto, ho peccato. Faccio schifo come persona. Perciò non ero un bambino, ero un magazzino di sensi di colpa. Insomma, a volte si dice che si stava meglio quando si stava peggio. Forse in parte è vero, però è meglio non esagerare, perché io certi giorni ho ancora un po' di paura. Temo di essere spedito col grembiule dietro la lavagna. mamma mia, Nagatomo. Comunque, si scrive Valeria: caro Leonardo, non avendo tempo di fare sport, corro sulla scala mobile. Potrebbe essere una spiegazione. Non correte, guadagnate 3 secondi, 4, non serve a niente. Poi a Milano c'è una metropolitana ogni 2 minuti, quindi non è però che... Però infatti c'è un ascoltatore che scrive: io vivo a Napoli e corro sulla scala mobile perché la metro passa ogni 15 minuti, quindi se perdi quella è finita. Quindi fatevi largo! Un appello veloce. Io prendo la metropolitana in piazza Udine, la scala mobile di piazza Udine è sempre rotto. Io vorrei capire perché, se c'è qualcuno che me lo può spiegare. Così. Attenzione, facciamo l'annuncio: sistemate appello la intervenire scala sulla scala mobile di piazza Udine. Piazza Udine, il giornale radio. Sei un dermatologo in cerca di nuovi clienti? Allora acquista e regala ad amici e conoscenti la lozione dopo barba Lambro, la lozione che produce ogni giorno eccitanti novità sulla tua pelle, risolvibili solo con l'aiuto di un bravo dermatologo. Dopo barba Lambro, il dopo barba per l'uomo che non teme il pericolo. I funamboli. La seconda ora dei funamboli, che inizia con questo bel ritmo alle 10:08. Siamo c'era qui. C'era anche di ironico in questo bel ritmo. No, assolutamente. Senti un po' un rock. Senti, è arrivato un messaggio che dice: per favore fate cantare Veronica. No, io te lo volevo segnalare. Devo dire che questo te lo sei autoprodotto o tuo cugino. Potrei averlo fatto mandare a qualche amico da qui sotto. Questo va. È vero, però è arrivato. Senti qua i nostri ascoltatori invece. Allora, signor Manera, visto che fai simpatico, non le do più la villa alle Bermuda. Hai capito? Imitatore, una sega. Hai dato dell'imitatore al presidente Berlusconi, vergogna. Lo ringrazio comunque, è stato gentile avere questo pensiero nei miei confronti, no? Che bello però guadagnare e perdere una villa alle Bermuda in giro di 5 minuti. È una cosa che non succede a tutti. Non so come gli va sul programma di cui gli voleva affidare la conduzione. Su quello non ha fatto precisazioni. Il programma, secondo me. Comunque, io mi annoio da morire sulle scale mobili, ci scrive Luca da Cagliari. Forse per questo corre. Perché io ce l'hai penso con chi corre sulle ma scale mobili? Ma perché non guadagnano tempo? Mi sembra una corsa inutile. Beh, un po' di tempo sì. Quanto guadagni? Poco. Poi devi aspettare che arrivi il vagone della metropolitana. Quindi non è detto che tu arrivi e immediatamente parti. Magari aspetti 5 minuti e hai guadagnato 3 secondi prima. Però hai corso, ti sei mosso. Per esempio, io sulle scale mobili leggo la storia di quella celebre eroina argentina, Banda Nara, che si innamorò di Icardi e insieme al primo sguardo capirono finirà sto libro no, Beh, adesso mi mancano ancora diverse pagine. Finita. Secondo me ci arrivo per l'estate, intorno a giugno. Signori, signori, comunque alle 19 minuti è il momento del funambolo del giorno, anzi oggi è una funambola del giorno, una donna che vogliamo raccontare perché opera in un ambito molto profondo, molto particolare. Sentiamo un po'. Nome: Magda. Cognome: Fontanella. Età: 32 anni. Laureata in filosofia. Dal 2011 lavora nel nucleo stato vegetativo degli istituti Airoldi e Mozzi di Lecco. La sua missione è portare la filosofia nei luoghi di sofferenza, dove le domande sul senso della vita sono forti. Avete capito già la profondità dell'argomento. Magda Fontanella, buongiorno e grazie di essere qui. Buongiorno a voi, nostra, grazie a voi. La nostra funambola del giorno, che opera appunto in questa residenza sanitaria assistenziale, in situazione, abbiamo sentito, anche dove c'è ovviamente molta sofferenza e molte domande, soprattutto in cosiddetti stati vegetativi permanenti. Ma lei che fa tecnicamente con i parenti delle persone che soffrono? Tecnicamente sto insieme a loro, come è un verbo che ritorna spesso nel riflettere anche... quando rifletto su cosa faccio io, in realtà sto insieme a loro, vivo i momenti sia tristi, sia di speranza, sia di sconforto che di conforto insieme a loro nella quotidianità della vita del reparto, dal bere un caffè al fare due chiacchiere su come va la giornata. E altre volte invece organizzo poi degli incontri di formazione su dei temi che abbiamo voglia di approfondire un po', come quelli delle dichiarazioni anticipate, per esempio. E altre volte faccio dei colloqui individuali un po' più profondi in cui si indaga insieme il senso dello stare vicino a un proprio caro che non sembra essere contattabile. E niente, sto insieme a loro. E beh, dice niente, sto insieme a loro tante volte. Sostanzialmente lei, Magda, si prende cura delle persone che si prendono cura. È un po' questo. È un po' questo, sì. Anche se sembra più tanto, anche davvero col personale sanitario che davvero mi aiuta a entrare nel merito delle questioni e affrontiamo insieme le grandi domande. Più una ricerca insieme che facciamo, più che dare senso lo costruiamo insieme. Sembra quasi un lavoro più da psicologo che da filosofo in qualche modo. Tanti me lo dicono, tanti me lo dicono, ma io amo alla follia la filosofia, a me ha dato tanto e sta dando tanto, e la mia scommessa è che siccome la filosofia è abituata a interrogarsi sulla vita, sulla morte, sul dolore da sempre, da secoli, in questi ambiti può fare infatti qualcosa. Infatti ha un po' anticipato la mia domanda, cioè come la filosofia può aiutare, può confortare, può dare delle risposte in una situazione in cui molti le risposte non le hanno. Sì, forse non le dà nemmeno le risposte, ma aiuta a costruire insieme delle domande che ci rendono un pochino più sopportabile una fase brutta della vita nostra o del proprio caro. Ma Magda, quanto spesso le capita di doversi sottrarre a rispondere? Cioè quanto spesso dalle persone c'è bisogno proprio invece di avere una risposta certa? Forse tanto spesso. Anzi, mi piacerebbe che parlassero alcuni dei parenti che seguo, che mi dicono sempre: ma allora la filosofia serve solo a metterci in crisi? E tanto spesso, ma forse perché il senso non è quello. Il senso è il domandare, il senso è la ricerca. La filosofia nasce proprio da questa inquietudine, che a volte è inquietudine e a volte meraviglia, e aiuta ad accompagnare il percorso della domanda. Poi la risposta ognuno la trova attraverso le sue risorse. Ma quindi lei attinge proprio alla filosofia, ai testi dei filosofi per parlare con queste persone? Sì, a volte sono solo frasi, a volte facciamo insieme delle letture un po' più lunghe e poi cerchiamo di calarle ognuno dentro quello che sta vivendo. Insomma, mi sembra un, come dire, una funambola a 360 gradi, perché raccontare, cioè affrontare anche questo tipo di situazione. Ma è un vero e proprio lavoro, Magda, oppure è una passione che affianca qualcos'altro? O... Io penso che in primis sia una passione. Io mi faccio guidare tanto dalla pancia e dal cuore nelle scelte della vita che ho fatto, anche nella scelta del lavoro. Questo era un progetto di un dottorato, che poi è stato accolto dagli istituti riuniti Airoldi e Mozzi di Lecco. Io ho fatto tante domande, loro mi hanno accolto, i miei direttori sia generale che sanitario mi stanno dando tanta fiducia, e quindi sì, è anche un lavoro, è un lavoro. in cui credo tantissimo. Certo, la parola chiave credo che sia un po' anche la bioetica, no? Cioè, sì. Studiare le questioni morali legate alla ricerca biologica, applicate alla medicina in tutte le sue fasi. Chiaramente torna alla mente il celebre caso Englaro. Eh sì, tra l'altro lei credo fosse proprio di lì, no? Certo, nella città di Beppino Englaro, che è un grande amico e saluto con grande affetto tutte le volte, lo abbraccio. Sì, Eluana era di Lecco, sì. C'è qualche filosofo, secondo lei, che diciamo è più adatto per parlare di questi temi, per interrogarsi su questi temi? In realtà penso che ogni grande filosofo sul tema del perché viviamo, perché moriamo, perché c'è la malattia, che cos'è la coscienza, ogni grande filosofo questi temi li ha toccati. E per me è una fortuna, perché così ho tante risorse in cui scavare. Questo certamente. Un'ultima cosa, quanto impatta la religione, che è una cosa ben diversa ovviamente dalla filosofia, o quanto attinge la religione, perché sa, poi incontrerà anche persone che magari con la religione non vogliono avere nulla a che fare. Certo. Allora, c'è chi davvero trova poi nella fede la forza per affrontare tutto e chi no. Il rapporto fra filosofia e religione può essere sia di accompagnamento, l'una accompagna l'altra, sia di collisione. Io incontro sia persone che affidano tutto alla fede, sia persone che invece hanno bisogno di un percorso più razionale. Nel mio lavoro cerco di non mettere sulla strada che voglio io, cerco davvero di accompagnare ognuno a trovare la risposta che per lui ha significato. Poi sicuramente ci sono alcune domande che all'uomo non è dato avere risposta. Chiaro. Il mistero c'è, io questo lo incontro e fa parte proprio del mio vissuto quotidiano. No, ma chiaro, ma poi lei ci ha spiegato che non è lì per dare tutte le risposte, ma per porre dei dubbi, anche, insomma, per aiutare a cercare di affrontare anche con delle domande che rimangono sospese. Più che altro penso che il dubbio avvicini le persone, nessuno sa proprio tutto, e invece arrivare con delle certezze precostituite rischia di allontanare e creare muri. Certo. Beh, poi probabilmente è un contesto talmente estremo e drammatico in cui l'assertività nelle risposte non avrebbe neanche un grande senso, immagino, no? In ogni caso, noi Magda Fontanella davvero la ringraziamo, perché è una funambola molto particolare che, come avete capito, opera in situazioni sicuramente anche di grande sofferenza tra i parenti dei malati che sono in stato vegetativo permanente, per cercare di affrontare attraverso la filosofia quelle risposte che... Anche un'applicazione molto diversa della filosofia rispetto a quelle che siamo soliti conoscere, no? Assolutamente sì. E la ringraziamo, la nostra funambola di oggi era lei, Magda Fontanella. Dopodiché dobbiamo andare a sentire le informazioni sul traffico, poi cambiamo, come dire, registro, perché parleremo della movida, quella che disturba. Sapete che il comune di Brescia è stato condannato, ora faranno ricorso, perché due cittadini si sono lamentati per il rumore. C'era il rumore tutta la notte, scusi, mi addurma. Forse è stato Peter da Parpo. Che secondo si è... me potrebbe essere stato vero. Scusi, mi addurma. Era accaduto. Il rumore notturno è bullismo, vero Peter? È bullismo. Diciamo che c'è, mi piace mia. Vabbè, inizia anche a parlare col traduttore simultaneo qui il nostro Peter da Parpo. Ma è lei Peter che ha fatto ricorso? No, è mio cugino. Ah, il cugino. Perché siete una famiglia estesa voi, molto numerosa. Volta sentite che la banda lei, no? Vabbè, insomma, Veronica, capisco, poi... comunque, non so, sono importanza. Quella banda lì, quella... Faccio le domande, vabbè. Poi, vabbè. È il cugino di Peter, no? Non credo che sia così, ma in realtà il tema è molto sentito. Città, soprattutto grandi città, dove bisogna convivere tra i giovani o i meno giovani, tipo Manera, che vogliono comunque festeggiare fino alle 3 di notte, gente che vuole dormire... Adesso se riesci comincia a dire che la prima sentenza è andata così e comincia ad istigare tutta la popolazione italiana a lamentarsi del fatto che c'è movida sotto comune, casa, dopodiché i singoli comuni verranno a cercarti e io lo dico qui, io non ti difenderò. Tu starai coi comuni. È evidente che sì, come quello di Montemurlo, già, voglio ricordare. Ne ammette difende, Mila. Neanche lui mi difende, traduzione. Traffico. È finita così. I funamboli. Caro Renato Manera, in tutte le città civili si sta fermi stando sulla destra. Prova ad Hong Kong a metterti in mezzo, ti travolgono. Capito? Capito. Allora, io non dico di non stare sulla destra, dico di non correre. Sto sempre sulla destra. Anche quando vado in piscina a nuotare mi hanno ripreso, perché mi devi stare sulla destra a nuotare. Anche lì. Leonardo, tu rallenti la produttività della città. Questo è vero, sono inadatto a Milano. Ci sono quelli che corrono anche sull'acqua in piscina? Fammeli conoscere. Sì, come dite voi a Roma, sciallana vuol dire, stai tranquillo. Dai, scialla. No, al nord non dite, dai, vai tra. Ma no, tranqui. È una crociata che sta facendo contro quelli che corrono sulle scale mobili. Quella di Leonardo Manera, una vera e propria crociata. Ma c'è proprio la tipologia, perché li vedi, sono tutti più o meno simili quelli che corrono sulle scale mobili. Ah, c'è anche un prototipo proprio. Adesso entriamo nell'ombrosianesimo. Come fai una descrizione lombrosiana? Com'è colui che corre sulla scala mobile? Allora, adesso mi inimicherò sicuramente qualcuno. Sì. Comunque sono persone tendenzialmente con le scarpe un po' a punta e con il nodo della cravatta un po' grossa. E le donne invece? Le donne corrono meno sulle scale mobili, però anche loro sono donne abbastanza in carriera, quelle che corro sempre con le scarpe molto a punta. Perché la scarpa a punta mi fa donna in carriera o uomo in carriera? Sì. Più donna che uomo in carriera. Comunque di solito corre sulla scala mobile la persona con la scarpa a punta. Questa è la mia... Questa analisi profonda, profonda. Anche i cowboy, no? Per esempio, con i camperos texani se la corrono sulla scala mobile. Certo. Insomma, il nostro Leonardo Manera, pensate che l'abbiamo messo anche scritturato sotto contratto per averlo qui con noi. Allora, le 10:21 minuti, vogliamo parlare di quello che succede nelle città, soprattutto le grandi città, dove convivono a una certa ora della notte coloro che vogliono festeggiare e coloro che vogliono dormire, o meglio, convivono male. Perché contro la movida ci sono proteste. A Brescia addirittura salutiamo l'assessore alla sicurezza del comune, Walter Mucchetti. Buongiorno, assessore. Buongiorno a voi. Avete perso in primo grado, avete fatto ricorso ovviamente, con condanna di risarcimento di un paio di cittadini che vi hanno chiesto, ma che cosa, soldi? Cosa vi hanno chiesto in concreto? Ha chiesto soldi. Soldi? Quanti? Soldi. Tanti soldi? 50.000 euro per il danno subito. Danno biologico e patrimoniale per rumore antropico. No, più esatto. Che biologico è un rimborso, quindi una parte per le finestre, per gli infissi che hanno dovuto cambiare, come danno generale. Loro dichiarano di non essere più riusciti a vendere il loro immobile perché in questo momento è in una zona probabilmente dove c'è la movida, quindi non appetibile per un privato. Perché in una zona centrale di Brescia, no? Una zona storica si chiama il Carmine, che una volta era un po' il regno di spacciatori, di droga e un po' di prostituzione, e quindi è stato riqualificato ampiamente, ma ha un po' questa criticità, quindi loro dichiarano di non riuscire a venderlo. Mi ha stupito, assessore, questo tipo di richiesta, al di là della condanna, perché il problema c'è in alcune zone delle grandi città, grandi, piccole, medie. Ma guardi, sono in contatto anche con altre città del nord Italia, Cremona, Bergamo, Mantova, in tutte le città c'è la movida, questo sappiamo anche Milano, piuttosto che tutte le città italiane c'è questo fenomeno che negli ultimi anni La gente si vuole anche divertire. Usano uscire. Gli incauti. Però la cosa strana è che appunto il Carmine una volta non aveva una buona fama, quindi è stata riqualificata, quindi il valore delle case è migliorato. Esatto. E con la sentenza del giudice Manera chiudiamo la questione. Esatto. Il problema è che si fa cadere prima di tutto questo è un caso che si trascina da anni. La peculiarità è che chi fa ricorso è il fratello dell'ex sindaco della nostra città. Sì, questo è vero. Questa è una peculiarità. Io sono convinto che il signore non abbia fatto nessun attacco politico né a favore né contro. Probabilmente ha una difficoltà che io comprendo. Infatti come amministrazione, quando ci siamo insediati, abbiamo fatto anche delle cose molto pratiche. Il sindaco prima ha fatto un tavolo, facendo sedere allo stesso tavolo sia gli esercenti che i residenti. Quindi li abbiamo fatti incontrare, perché... bisognava trovare un punto, creare un dialogo. Però c'è anche da dire che a un certo punto alle 2 di notte, se uno vuole bersi una birra e uno vuole dormire, sono quelle situazioni che non trovano proprio molti punti di dialogo. Leggo se... che c'è stata dapprima la resistenza dei signori che hanno iniziato con le classiche secchiate d'acqua, che è il primo sistema di autodifesa, una conflittualità complicata che poi uno quando non dorme, ovviamente mi rendo conto che dopo a volte è anche esasperata e quindi... E c'è la guerriglia di zona. È la stessa tecnica che utilizzava nel mio condominio contro noi bambini il signor Sistieri, che ci lanciava le secchiate. Però il comune cosa ha fatto? Ha fatto un'ordinanza contingibile e urgente subito dopo queste riunioni, e quindi a Brescia, in questa zona della città, a un certo punto della notte i locali chiudono. Però, a che ora? Allora, ovviamente abbiamo differenziato, il fine settimana gli concediamo mezz'ora in più, d'estate qualcosina in più, d'inverno poi ovviamente diminuisce di per sé, però verso l'una di notte tutti i locali si chiude. Però assessore, aspettate, vogliamo presentare un'altra ospite, che è Simonetta Chierici, che è presidente del coordinamento Antimovida, e qui già si capisce la posizione. Chierici, buongiorno. Buongiorno, intanto è Antimovida Selvaggia. Antimovida non Selvaggia, Antimovida, vabbè, sì. Ma è contro la degenerazione della Movida, è diverso. Di dove è lei? Io sto a Torino, la presidenza attualmente è a Torino, e poi quando più avanti ci potrebbe essere uno dei presidenti che sta in un'altra città. Che si intende per Movida Selvaggia? Esatto. Movida Selvaggia intendiamo la degenerazione del fenomeno Movida, che di per sé è un fenomeno assolutamente logico, normale, dalla Spagna, bla bla bla, ma quando degenera, perché alla Movida cosa corrisponde? Una cosa essenzialmente, il commercio e il consumo di alcol. L'alcol è una merce particolare, se se ne consuma troppo il fenomeno degenera. E però che possiamo fare? Non è che possiamo... che possiamo fare? Possiamo controllarla. Lei sa che esiste una legge per la quale per un commerciante di alcol è proibito vendere a persone in evidente stato di ebbrezza e a persone che hanno dei problemi psichici? Allora forse diciamo la prima è più evidente, ma la il problema seconda, psichico come seconda... si attesta, cioè come fa il venditore a dire no a le persone che arrivano in evidente stato di confusione mentale, quindi in maniera deve essere palese, insomma, molto è chiaro che non è che uno vede uno dice lei è un menomato. Quindi lei suggerisce che ci siano le forze dell'ordine, è una legge. Deve essere osserva, è assolutamente fondamentale, vietato vendere ai minori di 16 anni. Vabbè, questo è un reato penale. Ma le ordinanze, per esempio, comunali che vietano di vendere da bere dopo una certa ora, non sono state un po', non hanno tamponato la situazione? Per esempio a Torino ce n'è stata una poi dopo gli episodi che si sono verificati quest'estate. Sì, infatti noi a Torino, nello specifico, abbiamo avuto un incontro con l'assessore, e il quale ci ha chiesto come era andata, e abbiamo detto, perché quando va detto che un minimo miglioramento c'è stato. Il problema qual è? I problemi delle ordinanze sono due. Uno, sono proprio perché contingibili e urgenti, hanno una durata limitata nel tempo, e quindi 2 mesi, 3 mesi, 6 mesi, e poi si ricomincia. Due, deve essere fatta applicare. Uno dei temi delle tantissime città che fanno parte del nostro coordinamento è il fatto che i comuni mediamente non fanno osservare, esistono leggi e regole a iosa. Poi vanno fatte applicare. Però le volevo chiedere questo, Chierici. Lei capisce, non conosce la vicenda di Brescia di queste due persone? La conosco benissimo, perché l'abbiamo seguita come coordinamento nazionale. La appoggia? Cioè l'appoggia, immagino, hanno fatto bene a chiedere soldi al comune. Hanno fatto benissimo. Mi permetto di correggere ciò che ha detto l'assessore. Sì. Allora, i danni economici sicuramente. Ecco, guardate, assessore, guardi anche che i danni biologici sono enormi, perché voi conoscete la tortura del sonno. Se uno non dorme. Sapete che da millenni e oggi tuttora viene usata sì, in certi paesi. Come no. Allora, non dormire, bambini, anziani, gente che lavora. Non fa stare bene, fa ammalare. Ma è chiaro. L'articolo 32 della Costituzione italiana. Voi sapete cosa dice? Solo che bisognerebbe mettere delle forze dell'ordine anche lì nei locali a controllare che non vengano venduti alcolici. Oppure cosa dobbiamo fare? Mettiamo i locali? Siete un amministratore pubblico, bisognerebbe... Certo, cosa lo dovrò fare? No, non era l'assessore che parlava, era Leonardo, Manera. Adesso le risponde l'assessore. Assessore, risponda lei. Però io dico anche, che facciamo? Mettiamo i locali nelle periferie dove non ci sono case? Ci sono molte cose che si possono fare. Allora, prima di tutto dobbiamo chiarirci un punto. Se le istituzioni pubbliche non sono dopo aver creato questo fenomeno, l'assessore parlava di riqualificazione, questo è uno dei leitmotiv che va in tutta Italia, gli amministratori abbiamo risanato le zone. Tu risani E se poi, dopo aver risanato, permetti, crei e stimoli le condizioni di centinaia o migliaia di persone per strada che urlano, sbraitano, spaccano bottiglie, pisciano, vomitano, eccetera, e fanno altri bisogni, non è colpa. Non so, assessore, allora, vuole rispondere a Simonetta Chierici? Ma sì, il quadro che viene dipinto probabilmente non riguarda questa zona della nostra città. Qui abbiamo delle persone che tranquillamente alla sera stanno all'aperto, solo che essendo in una strada stretta, perché sono dei vicoli del centro storico, fanno, è ovvio, rumore, che il rumore viene amplificato. Segnalo che questa è una causa civile del 2014, quindi la giunta nostra, ma che fa riferimento a misurazioni del 2012, cioè esattamente di anni prima, dove la situazione era effettivamente fuori controllo, perché effettivamente la giunta precedente aveva dato ampio spazio all'apertura e sollecitato l'apertura di questi locali. Noi abbiamo emesso prima di tutto un'ordinanza contingibile e urgente che viene reiterata da 2 anni, quindi non è vero che non si può reiterare con degli accorgimenti, le ordinanze possono essere reiterate e in questa zona è in funzione tuttora. Perché i residenti, perché i commercianti non ricorrono contro questa ordinanza? Perché hanno compreso che era un punto di equilibrio per permettere ai residenti di poter dormire e quindi hanno accettato l'ordinanza contingibile e urgente che viene reiterata da 2 anni. Sì. Ma infatti, seconda questione, come uno si faceva punti... una volta nei locali per allontanare gli avventori, anche il Comune invece si è attivato e quindi cosa ha fatto? Subito dopo la chiusura dei locali passa la macchina che pulisce le strade, quindi con il getto dell'acqua ovviamente per terra, allontana gli ulteriori avventori perché si cominciano a pulire le strade e quindi diciamo si allontanano ulteriormente. È una battaglia. Uno degli aspetti interessanti di questa sentenza, assessore, evidenza, le volevo chiedere questo, l'esercente è scavalcato in tutta questa faccenda, la sentenza in qualche modo si riferisce all'ente proprietario della strada, quindi a voi, al comune. Cioè, è questa la peculiarità che noi abbiamo contestato, perché secondo me la sentenza è eccessiva, quindi a questo punto il giudice decide lui quante forze di polizia mettere e dove metterle. Se quella sera abbiamo 6 incidenti stradali o una rissa da un'altra parte, io non posso garantire la sicurezza nella città perché mi impone una sentenza di mettere degli agenti lì. Mi sembra forse un po' eccessivo come ruolo della magistratura. È inefficace perché ci impone alla polizia locale, espressamente viene citata la polizia locale, di allontanare gli avventori mezz'ora dopo la chiusura. Io segnalo che a Brescia c'è un'ordinanza contingibile e urgente che impone la chiusura, ma se dovesse essere appellata, questi locali possono tenere aperto tutta notte, perché la legge nazionale concede a loro, quindi io dovrei allontanarli mezz'ora dopo una chiusura che non esiste. Ma è chiaro che ci sono delle situazioni in cui... purtroppo le situazioni proprio di estremo vicinato tra la movida o il locale che ha la moda, il locale che magari fino a poco prima non era frequentato, poi diventa il locale alla moda. Abbiamo i PR che vivono di queste, quindi i locali si gonfiano e si svuotano improvvisamente per esatto, la capacità di PR. Ci sono anche dei fenomeni proprio di locali che diventano locali di punta per un paio d'anni e poi vista magari non lo sono più. Di chi ci sta sopra. Conto che poi l'ordinanza, la magistratura ci impone anche di allontanare queste persone se non se ne vanno subito dopo questa mezz'ora. Io ho capito una cosa. E che... se uno non si allontana, cosa facciamo? Carichiamo le persone. No, chiaro, ho capito che non esiste una soluzione. L'auspicio è che i locali si svuotino. Non vada più nessuno, locali vuoti. No, non esiste, cioè non è che esiste una soluzione a tutto. Se c'è un locale sotto casa mia che sta facendo grandi affari, vista dall'ottica del proprietario del locale, è una cosa meravigliosa. Vista da me che sto sotto, è un disastro. E bisogna contemperare le esigenze. Allora, lo so, ma cosa fa? Dobbiamo contemperare le esigenze. Io ho capito un'altra cosa, che la convivenza è proprio l'emblema del funambulismo, sia nei condomini, che sia dappertutto, dappertutto. È l'emblema. Anche sulle scale mobili, per esempio. Ovunque, sì. Comunque, salutiamo e ringraziamo l'assessore alla sicurezza comune di Brescia, Walter Mucchetti, e Simonetta Chierici, presidente del coordinamento antimovida selvaggia. Dobbiamo andare alla borsa e poi i lavoratori atipici. Oggi ne abbiamo uno, ragazzi. I funamboli. Buongiorno ragazzi, a proposito di stare a destra, io quando vado per strada, nelle tangenziali piuttosto che in autostrada, odio davvero tutti coloro che occupano la corsia centrale. Ah, insopportabile. Creano traffico e io con un pizzico di goduria li supero a destra, no! Li guardo anche con un certo ghigno. No, no, però caro ascoltatore, che questo argomento è un'anticipazione della rubrica Defurbizzati. No, ma cioè, ragazzi, non si supera a destra, voglio dire, già no, quello proprio non si fa. Quelli che stanno al centro sono passibili, tra l'altro sono sbagli di 2 punti. Adesso non vorrei fare quello. Beh, che so. Tu puoi stare al centro, no, se vai in una... No! Ma scusa, se vai la corsia a destra è libera, potete litigare, non Bonini. Puoi stare al centro, dovresti essere fermato e sono 2 punti, credo, la patente deve occupare la corsia più libera a, sì, destra, a destra, a destra, a destra. Allora la corsia al centro non dovrebbe occupare nessuno, perché se non stai su quella di destra, stai su quella di sinistra. Certo, e perché l'hanno fatta quella centrale? Per superare quelli che sono a destra, ci i camion. Ci vanno quelli che corrono sulle scale mobili poi. Leo, non ti abbiamo mai parlato di quando Alessandro in una vita precedente faceva il vigile? No. Nessuno ti aveva mai allora, detto nulla. Allora, attenzione, bello. Alle 10.41 dobbiamo fare una denuncia gravissima. Qui ai funamboli. No, la denuncia è successo un episodio in Crescioso. Il papà di Elisa Pancaldi, la nostra redattrice, le ha scritto dicendo: ma davvero ti piace Nagatomo? Allora... Secondo me ha cambiato già la serratura di casa. Vedi, ci sono certe cose che ai genitori non si dicono mai, no, si ha pudore a dire certe cose. E si scoprono in una trasmissione perché radiofonica. Perché a volte si preferisce dirlo così a tutti piuttosto che nell'intimo della propria famiglia. È così, è così. Sono drammi familiari che spero si risolvano senza noi cambiare serratura di casa. Siamo vicini e solidali al papà di Elisa. Sì, sì, sì, assolutamente, perché Nagatomo non si può guardare. Allora, è il momento in cui... Guarda che Nagatomo ti scrive oggi pomeriggio. Dopo tutto quello che hai detto è evidente che ti arriverà un messaggio in cui ti dice di rettificare rispetto alla sua altezza, innanzitutto. No, sì, non è un 1,40 metro. Lui ti manderà il certificato medico, io lo so. Sarà almeno 1,70, credo. Adesso mette le pezze. Nagatomo ha preso 30 centimetri in un'ora. Vabbè, è stata una cosa miracolosa. È potenza delle vittorie nei derby. Allora, è il momento in cui raccontiamo dei lavoratori strani, atipici, che ci colpiscono. Oggi io non ho veramente capito niente del lavoratore che ospitiamo. Ma... Eccoci. Eccolo qua. Perché dobbiamo salutare Andrea Guariento. Buongiorno, Andrea. Buongiorno. Tecnicamente, buongiorno, attenzione, è istruttore di sci show. Sì, esatto. Sì, cioè praticamente... la spada laser, no? Come si chiama? Sci show. Lo sci show è il primo stile. Sì. Primo stile, sì, del, di ludosport, ossia la scuola che, di cui io sono istruttore, sì, che insegna praticamente alle persone come combattere con delle spade laser, praticamente. Ma... questa non ce l'avevamo in Canada, le spade laser. Sì. Combattere dove? No, esatto. Perché esatto, questo mi è un po' oscuro. Allora, praticamente i nostri tre maestri istruttori, sì, hanno codificato questo stile di combattimento, prendendo esempio da varie discipline marziali. Sì. E partendo dal presupposto che la spada laser sia effettivamente realistica, hanno codificato questo stile in cui due contendenti si affrontano come in un duello di spada. Sì, ho capito, ma e questo, cioè, le spade ci sono appunto nelle arti marziali, ma le spade laser? Non ci sono le spade, le immaginano. No, ma ci sono delle arti marziali in cui si combatte con, non so se tecnicamente vengono chiamate spade, forse il taekwondo, no? Esatto, infatti... alcune tecniche sono prese dal jiu-jitsu, ma la spada laser, medievale. La spada, esatto, laser. Beh, la spada laser praticamente cos'è? È un'elsa d'acciaio in cui vi è un tubo elastico ed è un tubo di policarbonato elastico che si illumina, poi fa suono, ed è una vera rappresentazione di come fosse una vera spada laser. E qua noi a Ludosport insegniamo vari stili per poter combattere uno contro l'altro. C'è tutto un regolamento, c'è un campionato, una tecnica da seguire, ci sono 7 stili da imparare. Ma quindi, l'età media di chi viene a lezione di spada laser qual è? Guardi, abbiamo cominciato adesso anche nella nostra sede a Padova a fare corsi per bambini, ma anche per adulti. Anzi, nella nostra sede ci sono più adulti che bambini. Io me lo vedo un manera. Senta, ma lei ha sempre fatto l'istruttore di spada laser nella vita o aveva anche dei lavori più normali prima? No, nel senso che è un lavoro, è un secondo lavoro che ho scoperto da 2 anni a questa parte, che mi piace moltissimo, è una passione che ho scoperto da poco e anche unisce la mia passione per qualcosa di tipo stravagante come l'ambiente di Star Wars alla mia ricerca di qualcosa. Perché in realtà tutto nasce da lì, cioè prima di diventare insegnante Andrea è stato un appassionato autonomamente di spada laser, immagino. Sì, nel senso ero un appassionato del mondo di Star Wars e incuriosito da questa cosa che è nata in Italia, volevo verificarla di persona. Andrea, voi siete a Padova, se ho capito bene. Ma, sì, la nostra sede è a Padova. E ne approfitto per l'occasione per invitare tutti a cercare, voler venire magari a fare una lezione di prova. Ma come no? Tutti fondamentalmente questo sport è nato a Milano nel 2006. Mm-hmm. Quindi se magari qualcuno ovviamente è più comodo andare a Milano, vi invito a guardare il sito www.ludosport.net per trovare tutte le informazioni del caso. Per trovare il vostro istruttore di spada laser più vicino. Come Andrea Guariento, signori. Lavori strani, iscriveteci a funamboli@radio24.it. Ora vi sfido a trovarne uno un po' più strano di questo. Cioè, io stabilirei che alla prima scommessa che perdete con me, voi due insieme andate a farvi una lezione di spada laser ripresa. E la mettete sui social. Mi sono già iscritto qui a Milano. Guarda, ho digitato e mi sono già iscritto. Ludosport.net. Vabbè, istruttore di spada laser. Guarda come corso a guardare. Guarda come corso a guardare. Andiamo al traffico. Adesso tuo figlio ti ci porta, è chiaro. Ovvio. I funamboli. E allora siamo qui, caro Leonardo Manera. Allora, che ci vuol dire? No, io penso che Radio 24 sia una radio anche che si occupa, insomma, fa in qualche modo servizio pubblico, non so se voi condividete, no? Grazie. Tante notizie, tante cose. A parte noi, io direi che sì. A parte noi, sì. Poi togli anche Cruciani e vabbè, insomma, togliamo anche sì, Cruciani. Tante persone ascoltano Radio 24 proprio per sapere cosa succede nel mondo, no? E allora io ho pensato nel mio piccolo di fare anch'io un piccolo momento di servizio pubblico facendo il riassunto per chi non avesse potuto ascoltarlo delle notizie di oggi, di ieri, insomma. Quindi di fare un tutte le notizie minuto per minuto. Benvenuti a tutte le notizie minuto per minuto. Ius Soli, addirittura d'arrivo Italia, decine di migliaia di stranieri, rischio di perdere il controllo del proprio suolo, vale 20,4 miliardi la manovra sessione di bilancio, manovra robusta, manovra normale, manovra snella, niente nuove tasse, rivendica il presidente Gentiloni, risorse ben indirizzate, importante misura, 1500 ricercatori per l'università, segnale molto chiaro, fattore umano, fattore di rischio, fattorino, arrotino, è arrivato l'arrotino, famiglie difficoltà, capitolo pensioni, non ci sono più le pensioni di una volta, cammino parlamentare, critiche alle opposizioni, critico MDP, incentivi assunzioni dei giovani, stop all'aumento dell'IVA dal 1 gennaio, disinnescare l'aumento dell'IVA, vincoli europei di bilancio, vincoli europei, decontribuzione, tasse lavoro giovani, imprese, credito, impresa, bonus, eco bonus per la cura di giardini e terrazzi, giardiniere, cene sui terrazzi, spaghetti, pollo, insalatino, una tazzina di caffè, critico MDP, spazi residui, ministro dell'economia Padoan, manovra in campo e relative coperture, più consistente il pacchetto a favore della crescita, rischio tutt'altro che remoto, borsa sale, borsa scende, borsa così chiusi, bollone, ministro Minniti, branca in terra a favore della difesa nazionale, CDA Telecom, chilometri e chilometri di cavo, nulla osta sicurezza, norma, salva, squadra, basket, giovani extracomunitari, passaggio uragano Felia, poi declassato a tempesta tropicale, critico MDP, conseguenze devastanti, 20 fino a 150 km orari, negozi chiusi, Scozia, alcune zone in Inghilterra già colpite in passato, Barcellona e Madrid, nuovi scontri, infiammata arena catalana, indipendenza, delegazione governo spagnolo, sindaco di Barcellona, marcia indietro sull'indipendenza, marcia avanti sull'indipendenza, marcia spedita, coda in tangenziale, pepe, referendum 22 ottobre, Marroni, Silvio Berlusconi, niente complessi di inferiorità rispetto alla Lega, 7 offerte per Alitalia, rischio spezzatino, carbonara, tirami su, perdita posti di lavoro, Lufthansa, EasyJet, flotta, volare, cantare, nel blu dipinto di blu, ipotesi che il governo vuole mettere in stand-by, strategia, il voto siciliano è a rischio, monitoraggio sul voto della regione, critico MDP, Palermo, Catania, Termini, Merede, Siracusa, allontanarsi dalla linea gialla, teatro greco, Magna Grecia, è tutto magna, Meloni, Fratelli d'Italia, Bella Italia, Banca Italia, la formazione della lista con gli alleati, sono da escludere larghe intese, il movente può essere circoscritto, scandali sessuali, si allunga l'ombra sulla dinastia dei Clinton, Weinstein, $10,000, campagna elettorale, agricoltori, agricoltura, calciatori, braccia rubate all'agricoltura, campionato Champions League! io ho capito tutto. Soprattutto mi è stato chiarissimo a un certo punto l'arrotino. Sì. È un riassunto, ma avete servizio pubblico per chi non... Arrota, coltelli, ecco. Forbici, forbicine, che forbici nome. Da seta, coltelli da prosciutto. Donne, è arrivato l'arrotino. Tutti quelli che correvano sulla scala mobile, certo, no? E avevano fretta. Hanno recuperato le notizie così, hai visto? Secondo me è un giornale radio straordinario. In due minuti sanno tutto quello che è successo. Sì, sì, sì. È tutto chiaro, tutto spiegato. Così possono tutto... dire che anche noi qui facciamo servizio pubblico, certo, e siamo utili alla collettività, che è il nostro, certo, ruolo in qualche modo, no? Tranne MDP che è critico. Critico, certo. MDP. Certo. MDP critico. Comunque c'è Angelo che ci chiama da Cinisello Balsamo, siamo in provincia di Milano. Angelo, buongiorno. Buongiorno a voi dello studio, buongiorno a tutti. Grazie. Volevo intervenire perché ho sentito il servizio quello sulla movida, sì, della, diciamo, dell'ordinanza di Brescia e quindi dei problemi che poi ne sono conseguiti. C'è una versione ancora diversa di questa situazione che è data dai negozi, quei negozietti H24 che distribuiscono bevande, bibite, sì, e quant'altro. Stanno diventando catalizzatori di vita notturna, in poche parole. Certo. Nel senso che questi non distribuiscono alcolici, come si è discusso anche prima, però in realtà diventano una fonte di alimentazione per diciamo alcuni nottambuli, non tutti ovviamente, ma per molti nottambuli, e con questo portano ha delle conseguenze che poi sono molto simili a quelle della movida. Capito, però Angelo, che cosa dobbiamo fare? Cioè, a New York, in America, si vive 24 ore su 24. Credo che si debba trovare un punto di equilibrio, cioè, siccome questi sono negozi aperti H24, probabilmente una normativa che ne imponga la chiusura, per esempio, dalle 22 alle 6... potrebbe essere una soluzione che consiglia. Insomma, sì, però Angelo, no, perché siamo quasi in chiusura e poi dopo c'è chi dice "ma io di notte voglio se bisogno ho bisogno cosa, di fare la spesa, se faccio dei lavori sui un lavoro sui generi, se ho bisogno". Io dico libertà e liberalizzazioni. E poi tu quello io, lo dici sempre, ma no, comunque, ma certo, quindi. Ma poi è chiaro che la libertà comporta anche libertà non è sinonimo sempre di tutte cose belle. Ti anticipo qualche SMS, perché tu non abiti in una zona dove c'è, esatto, la movida. Comunque ci scrivono mitico Manera, Leo Manera è matto, ci scrive Paolo Dalla Spezia, e questo lo stiamo per verificare. E su questo noi possiamo attestarlo proprio. E soprattutto finalmente c'è la definitiva consacrazione. Carissimi, ha ragione Alessandro, Nagatomo è inguardabile. Volete mettere Leo al confronto? È Michele da Firenze. Grazie, no, Michele! È tornato! Non ci ha mai abbandonato in realtà. È proprio una storia d'amore. Secondo me ci stanno già facendo una serie per Netflix. Sì, sa di sì. Come si conobbe lui, lui sentiva la vecchia. Comunque questo giornale radio io lo rivorrei. Un gol di Nagatomo? L'abbiamo trovato nel 71 quando giocava nei Pulcini. Va bene. Era allora... alto uguale, tanto, no? Eccola lì, adesso chi arriva la querela. A te, io non so neanche chi è Nagatomo. Salutiamo. Pensavo fosse tipo il Tamagotchi, considera. Tutti i funamboli d'Italia, domani alle 9 siamo ancora qui con le nostre spade laser. State con noi.